Mix 24 di Giovanni Minoli. Una sperimentazione partita male, quella condotta a Rennes in Francia su un farmaco assunto per via orale in corso di sviluppo in un centro ricerca privato accreditato dal Ministero della Sanità. Un morto e 5 ricoverati in gravi condizioni dopo aver testato un analgesico. I primi sintomi sono comparsi su un paziente 3 giorni dopo. La fase 1 di una sperimentazione è solitamente considerata la meno pericolosa perché il farmaco, che ha passato i test su animali, viene somministrato a volontari sani. Il ministro della sanità francese ha avviato un'inchiesta, tuttavia, benché rari, casi del genere secondo gli esperti possono accadere. Ora le inchieste dovranno fare luce su 3 possibili filoni: il farmaco in sé, le condizioni del laboratorio e la regolarità delle procedure e dei controlli. Il business delle 206.000 sperimentazioni cliniche in corso oggi nel mondo muove un giro d'affari di 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. La ragione che spinge una persona sana a ingoiare una pillola mai testata prima sull'uomo è quasi sempre il meccanismo, naturalmente, del rimborso spese. Luca Pani, che è medico, psichiatra, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Abbiamo sentito della tragedia durante la sperimentazione di un farmaco in Francia, in cui una persona ha perso la vita, altre 5 hanno riportato danni permanenti. Ma fare sperimentazione è essenziale, ovviamente, ma fino a che punto? Beh, sino al punto in cui dobbiamo innovare. Questo era un gruppo di farmaci, che è quello dei cannabinoidi, che copre delle aree cliniche scoperte, quindi stiamo andando in campi importanti, Senta, ma ci spiega qual è il percorso di un farmaco prima di approdare nelle nostre farmacie? Un farmaco nello sviluppo ha 3 gambe, una gamba di qualità, cioè il modo in cui è fatto, una gamba di preclinica, cioè tutta la sperimentazione nelle cellule, nei modelli in vitro, nei modelli animali, e una parte clinica, che è quella più nota a tutti. Queste 3 gambe sono equivalenti, nessuno pensi di tagliare l'angolo e fare poca sperimentazione preclinica o poca qualità per dire vabbè, tanto vedo poi se funziona nell'uomo, perché poi queste tragedie avvengono. In quali paesi si sperimentano i farmaci oggi? Un po' dappertutto. C'è stata negli anni scorsi una grande migrazione verso paesi dell'Asia e poi i grandi paesi emergenti, Brasile, la Russia, l'India, la Cina, i BRICS. Oggi c'è un maggior ritorno all'Europa perché, senza offendere nessuno, ma la qualità degli studi clinici europei, e l'Italia è una di queste, è più elevata. Quindi in Italia si sperimenta? Sì, si sperimenta. Ecco, ma su chi vengono sperimentati i farmaci? Beh, sono su pazienti in caso di malattie gravi oppure sui volontari sani, come questo caso tragico in Francia. Noi, avendo molta oncologia, molta emato-oncologia e molte malattie rare, in realtà facciamo le sperimentazioni già su malati. Ma fare la cavia è un lavoro? In alcuni paesi dove è anche consentito essere pagati, nel nostro assolutamente no, ci sono questi reportage dove alcuni ragazzi, prevalentemente maschi tra l'altro, guadagnano anche 2.000-3.000 euro ogni paio di settimane. Ma quindi possiamo parlare anche di un business della sperimentazione? Non è grandissimo, ma certo c'è un business più generale della sperimentazione, e quello è molto grande perché sviluppare un farmaco arriva a costare diversi miliardi di dollari. Certo. Quindi è, sì. Ma questi farmaci poi sono sicuri veramente? Questi farmaci sono sicuri perché sennò non verrebbero immessi in commercio, però se la sua domanda giustamente è le sperimentazioni, quanto riescono a simulare la realtà di tutti i giorni, beh, le dico dei numeri: quando noi siamo molto bravi, sperimentiamo su 1.000 soggetti, quando si fa il cosiddetto lancio mondiale ne prende 100.000 nella prima settimana, quindi se l'effetto collaterale era 1 su 10.000, anche grave, anche fatale, chiaro che sui 1.000 soggetti non lo vedevi e hai 10 effetti fatali in una settimana. Il farmaco sparisce, quindi questo è un fatto di numeri. Senta, ma secondo il regolamento dell'Unione Europea del 2014 tutti i paesi sono obbligati a condividere online le informazioni, è così, no? Sì, assolutamente così. Quindi tutti i volontari devono essere registrati, ma questo database esiste realmente oppure no? Sì, questo database è in costruzione. costruzione è un regolamento, quindi vuol dire che non è una direttiva, quindi è totalmente attuativo, ha un phase-in, cioè un periodo di ingresso che termina inesorabilmente, lo diciamo a tutti, all'ottobre 2018, quindi bisogna organizzarsi perché non ci saranno deroghe di nessun genere, e il database è assolutamente in costruzione ed è, sta succedendo così, certo. Ecco, ma se le sperimentazioni mediamente sono fatte su soggetti al di sotto dei 60 anni o intorno, per i più anziani i farmaci che si scoprono non servono a niente. No, non è così, perché gli esseri umani mantengono una continuità non solo anagrafica ma anche genetica e biologica tra i 64 anni e i 66, non ci sono esclusioni di questo. È vero però che ci sono dei criteri, ha ragione lei, ci sono dei criteri di esclusione che dicono meno di 18 anni e più di 65. La verità è che noi in Italia somministriamo, consumiamo più del 65%, 70% di tutti i farmaci in persone sopra i 65, quindi le posso dire... Quindi non servono a niente, diciamo. Per questo le assicuro che no, servono, e lo sanno tutti quelli che hanno 70-80 anni, servono, e servono parecchio. Non sono studiati specificamente in quella popolazione. E quindi questo lo stiamo cambiando, tra l'altro la nostra agenzia su questo. Cioè che cosa state facendo? Anche perché i farmaci diventano sempre più mirati e personalizzati, sì, no? anche se molto più cari. Anche se molto più cari, sì. Perché ovviamente sono diretti a quote di popolazione più piccola. Quello che stiamo facendo, noi stiamo battendo e anche a livello europeo su le cosiddette categorie speciali. Le categorie speciali sono sotto i 18 anni e i bambini, e qui la grande polemica, no? Certo. Volete fare le terapie, dovete trattare i bambini, ma altrimenti i bambini saranno quelli che prendono farmaci non studiati su di loro, vedi un po' se la cosa non è grave. Quelli sopra i 65 anni che meritano di essere studiati appositamente, ovviamente le donne in stato interessante, anche su queste si studia pochissimo, per cui l'idea è se è incinta non prendere niente, ma questo non è corretto, e poi ovviamente nell'allattamento. Queste sono le quattro categorie speciali su cui l'Italia sta rivolgendo la sua attenzione. Senta, per chiudere, dottor Pani, lei sostiene che per scopi terapeutici sarebbe meglio usare la cannabis controllata anziché prodotti di sintesi come quello sotto accusa in Francia. Perché tante resistenze sulla cannabis? Secondo me abbiamo avuto nella mia opinione personale, uno stigma storico nello studiare sostanze che vengono dall'abuso, che sta accadendo, però noi non abbiamo altrettante competenze. Le faccio un esempio: oggi è stata sdoganata in qualche modo la chetamina, no? Sì. che viene nella depressione resistente, è di notizia di ieri, avantieri, di questi giorni, che la Drug Enforcement Administration sta valutando l'estasi per esempio nella terapia dell'ansia. Sui cannabinoidi sintetici ad altissima concentrazione abbiamo avuto delle pessime esperienze, perché siamo saliti a delle dosi di concentrazione che non sono quelle della cannabis classica, che ha il 5%, il 10% di principio attivo, ma sino al 60-70%. Ora, il principio attivo così alto diventa un'altra cosa che noi non conosciamo, e ci troviamo davanti alle problematiche che avete visto in Francia. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS, insomma un esito necessario, diciamo, quello per raggiungere la qualità dei farmaci, però un percorso difficile da definire nelle sue sfumature. Soprattutto perché propone sempre dei problemi non solo medici, ma anche etici, filosofici. Sembrava l'intervista molto bella di Pani, sembrava di porre anche dei problemi che sono presenti poi nella science fiction, per esempio, no? Allora la realtà è che la devi sperimentare sugli umani. C'è poco da girare. Perché è un temore. Mi ha colpito molto nell'intervista quando il dottor Pani faceva riferimento ai ragazzi che si offrono per testare questi farmaci, che ne ricavano comunque dei guadagni, 2.000-3.000 euro. Racconteremo. Non so se c'entra, però forse sì. Ieri, davanti Montecitorio, ho visto un uomo rannicchiato su se stesso, si era appoggiato a un angolo della piazza e aveva su di sé un cartello dove c'era scritta la sua vita, il suo curriculum, 61 anni, esodato, ex autista, e poi in fondo disposto a vendere il rene. Ah sì, sì. E quindi immagino, chissà quanto mercato nero sotterraneo tanto c'è rispetto al vendere il proprio corpo in una forma che è quella dell'espianto, ecco, da vivo. Infatti la sperimentazione comunque dei farmaci è un processo lungo, ce l'ha raccontato con chiarezza il dottor Pani. È un farmaco, prima di essere messo in vendita deve passare attraverso varie fasi, l'abbiamo sentito. Una fase intermedia prevede anche i test sugli animali, che è un tema controverso che solleva infinite polemiche, a volte polemiche anche feroci. Ecco, Caterina Simonsen è una studentessa di veterinaria che è affetta da 4 malattie rare, che dopo aver pubblicato su Facebook un messaggio a favore della sperimentazione sugli animali, che gli ha consentito di produrre una medicina che l'aiuta a vivere, ha ricevuto una valanga di reazioni violente da parte degli animalisti, insulti di ogni genere fino all'augurio di morte. Ecco, Caterina Simonsen fa una proposta concreta, semplice: scrivere su ogni confezione di medicine che per realizzarlo è stato testato sugli animali. Ma intanto sentiamo la testimonianza di Caterina. Io soffro di ben 4 malattie rare. Io sono viva grazie ai medici, ai farmaci, grazie anche agli animali che sono stati sacrificati per trovare quei farmaci. E mi hanno detto, è meglio 10 topi vivi che non te viva. Boh, cioè, non lo so dove vivete, da chi siete stati cresciuti. Sta gente non prende medicinali, non cura i loro figli, non cura i loro animali. Boh, vabbè. Comunque, vi chiedo di chiedere all'AIFA di mettere grande sulla confezione di ogni medicinale che il medicinale è testato sull'animale a norma di legge, così che chi si deve curare possa fare una scelta consapevole se curarsi o meno. Vi auguro il meglio, Caterina Simonsen. Ecco, drammatica, appunto, lei propone di scrivere su ogni confezione di medicinale che per realizzarlo è stato testato su animali. Tu, Mario, sei d'accordo? Ma guarda, io sono... È un temone questo. Sì, eh? Certo, indubbiamente, so che colpisce le coscienze di molti, eccetera, però Giovanni, parliamoci chiaro, cioè la sperimentazione va fatta sugli animali, va fatta sugli uomini, cioè il progresso, senza dargli nessuna retorica alla parola, si fa così, cioè io non conosco altro metodo. Valeriano ci scrive: troppi farmaci, troppo facile, automatico il ricorso ai farmaci, con un'alimentazione corretta, molti farmici, vabbè, sarebbe inutile. Vabbè, sì, vabbè. Insomma, poi ci sono i malati da curare, però appunto abbiamo sentito adesso, provate voi a ragionare con un malato di cancro che vuole vivere o con i suoi familiari, ma in ogni famiglia ci sono drammi del genere e tutti cercano i farmaci migliori, le cure migliori, non scherziamo su queste cose. Ma anche la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo pochi giorni fa ha lanciato un appello su Repubblica proprio su questo tema della sperimentazione animale. Durante l'epidemia di Ebola del 2014, il nostro paese scoprì con orgoglio che a produrre uno dei due vaccini approvati era stata una piccola biotech italiana, la Okairos, fondata da Riccardo Cortese. Furono utilizzati roditori nella fase iniziale e primati, che vennero vaccinati e poi inoculati con Ebola. Sopravvissero tutti. Un successo per la ricerca biomedica, per gli animali e soprattutto per i malati. Senza la sperimentazione animale non avremmo quasi nessuna delle conoscenze sul funzionamento di tessuti e organi, né sarebbe stato possibile sviluppare terapie di prevenzione o trattamenti per i malati. La sperimentazione animale resta necessaria per decine di migliaia di ricerche. Ma grazie alla scienza abbiamo imparato a calibrare numeri, dosi e funzioni, evitando ogni sofferenza all'animale. Ora tocca agli animalisti. Se oggi curiamo malattie infettive mortali, attenuiamo dolori lancinanti, stabilizziamo l'umore, salviamo i nostri figli e portiamo a remissione alcune forme di cancro, lo dobbiamo al lavoro svolto anche sugli animali. E dovremmo riconoscerlo, almeno sull'etichetta dei farmaci, come è stato proposto da alcuni parlamentari. Ci si può anche non curare per coerenza o per una scelta di precisione etica. La stessa che si chiede ai politici che vogliono legittimamente opporsi alla sperimentazione animale. siano precisi nello spiegare praticamente ai malati a quale destino li si consegna. Ecco, fin qui l'intervento riassunto di Elena Cattaneo, della senatrice Cattaneo, su Repubblica. Tu, Pietrangelo, un farmaco sperimentato solo su animali e mai su un uomo, lo utilizzeresti? Beh, io sono dell'idea che bisogna separare gli ambiti, le conoscenze, le competenze, e quindi ciò che destabilisce la scienza, ciò che stabilisce il medico, è paradossalmente più importante di quello che dovrebbe essere l'anelito etico del paziente. Cioè il medico, ricordiamolo, adopera sempre strumenti che stanno a mezzo tra ciò che è lecito e ciò che è illecito. Il medico di una volta assaggiava l'urina, il medico di una volta praticava tecniche che possono essere considerate aberranti oggi. Certo. Il medico di oggi, a maggior ragione, si fa carico di quell'esperienza. Quando prima il nostro ascoltatore ci segnalava che una vita sana forse riduce, beh, ricordiamo che nell'Ottocento, nel Settecento, nel Seicento, nell'antichità c'era una vita infinitamente più sana di quella che viviamo oggi, ma si moriva prima. Certo. E c'era la possibilità di crepare immediatamente per cose che oggi invece risolviamo con una pasticca. Infatti Gianluca da Terni ci dice: date voce anche a tanti medici biologi che spiegano diversamente il problema. Naturalmente l'abbiamo fatto tante volte e continueremo a farlo. Tu, Mario, che dici? No, c'è questo aspetto, secondo me, molto interessante dal punto di vista dell'analisi del fenomeno culturale. Uno, la invasione totale del politicamente corretto anche su questi temi. E quindi parlare di sperimentazione sugli animali, ma sugli umani e così via, è diventato tabù. E l'altro, appunto, è il totem della vita sana che dovrebbe condurre alla fine della scienza e della medicina. È una follia. Naturalmente noi abbiamo detto all'inizio che chi fa la cavia lo fa per soldi, l'abbiamo detto nell'introduzione. Esiste effettivamente un mercato europeo di volontari che sperimentano sul proprio corpo nuovi farmaci per 2000 euro di compenso. Sentiamo chi la cavia l'ha fatta veramente. Federico Ruffo, che è un giornalista, nel 2011 è andato in Svizzera a sperimentare un farmaco sulla propria pelle, ha filmato e raccontato questa storia. Ci racconti com'è andata? Eravamo un po' agli albori della crisi economica, ci si occupava di dei mille modi in cui gli italiani cercavano di sopravvivere alla crisi, e c'era questa storia, quasi una leggenda, che girava soprattutto nei forum universitari del nord, della possibilità di fare la cavia umana per un sacco di soldi. La cosa veniva tenuta in una ristretta cerchia di persone, non se ne parlava troppo in giro, anche perché significava un po' aumentare il mercato della cosa e quindi aumentare la concorrenza. Certo, diminuire il prezzo. Sì, anche perché fra l'altro lì fondamentale è riuscire a infilarsi in una sperimentazione e restarci il più a lungo. Maggiore la concorrenza, più facile di trovare un candidato. E com'è andata? Migliore. Chiedevo a chi sosteneva di aver già fatto questa esperienza. E devo dire che con una certa facilità mi furono indicate tre cliniche farmaceutiche che si trovavano in Svizzera, ma tutte e tre in maniera impressionante molto vicine al confine. Ho scoperto il perché, ovviamente, la prima volta che sono andato lì, perché la verità è che ci andavano solo gli italiani, gli svizzeri non si sognerebbero mai di andarci a fare la cavia. Le cavie erano italiane, erano tutte italiane. E la vicinanza con il confine si spiega in maniera molto semplice: quando entri e firmi una serie di liberatorie ti viene detto che devi vivere rigorosamente entro un raggio di 300 chilometri dalla clinica, perché qualora tornando a casa tu dovessi accusare dei problemi devi essere raggiungibile entro un determinato lasso di tempo. Una volta scoperte quali erano le cliniche, direttamente dai loro siti mi sono iscritto all'elenco dei candidati. Mi contattarono nel giro di circa un mese e mezzo per una sperimentazione che riguardava un farmaco che serviva per curare le disfunzioni tiroidee. Più precisamente si trattava di sperimentare gli effetti sul pH dello stomaco di questo farmaco, capire se poteva causare o meno gastrite, ulceri gastriche, insomma avere un insomma cose gravi ma non gravissime, insomma. Non gravissime, devo dire, anche se mi fu subito spiegato con un certo dettaglio che immettere un farmaco per le disfunzioni tiroidee in chi disfunzioni tiroidee non ne ha poteva comportare fargliele venire dei problemi. Esatto. si fece un primo incontro di una giornata con un ricovero di qualche ora che serviva per valutare alcuni parametri, quindi pressione del sangue, esami del sangue, tutta una serie di test abbastanza veloci, e ovviamente fui costretto a inventarmi di sana pianta un'identità. Risultai idoneo ad un primo controllo nel quale comunque non entravi mai a contatto con gli altri candidati, si entrava una alla volta, ma non venivamo mai solo i medici. A contatto, soltanto i medici. Che ti Dopodiché, trattavano come? No, con grandissimi umanità, devo dire, in quel caso il loro scopo era abbastanza chiaramente riuscire ad ottenere il maggior numero di candidati possibile su cui sperimentare il farmaco, quindi erano tutti molto accondiscendenti e devo dire, intuì chiaramente che la loro volontà era quella di cercare di tenerti dentro, certo, un po' per avere un buon candidato, un po' perché evidentemente chi va là per sperimentare i farmaci ha realmente bisogno di quei soldi, quindi certo, c'era anche un lato umano. Altro dato impressionante è che i medici erano tutti italiani, non c'era solo anche i medici della sperimentazione erano, cioè italiani tutti, per italiani che vive tutti in Svizzera, assolutamente, erano tutti frontalieri, infatti tutti mi raccontavano che dopo aver lavorato qualche tempo negli ospedali italiani erano andati a lavorare in Svizzera, dove i compensi erano di gran lunga più elevati. Ecco, ma paura? Un po' di paura? Beh, molta, soprattutto la seconda volta. Perché? La prima quella di essere scoperti, la seconda perché ti viene dato, quando vieni ritenuto idoneo, un dettagliato elenco di cose che puoi o non puoi fare. Lì capì che una volta dentro sarei stato in trappola e sarebbe stato complicato venirne fuori, perché, vi faccio un esempio, i bagagli venivano perquisiti all'ingresso. Venivano perquisiti, io dovevo restare ricoverato 3 giorni. Venivano perquisiti all'ingresso perché in teoria dovevano controllare che tu non abbia droghe con te che possono in qualche modo inficiare, certo, i risultati della sperimentazione. Il mio problema era come nascondere le telecamere nascoste, certo, che avevano un'infinità di cavi e di cablaggi, quindi una volta fatta aperta la borsa. Alla fine riuscì a trovare qualcuno che aveva a disposizione delle telecamere wireless, che all'epoca, insomma, qualche anno fa erano poche da trovare. Sì. E riuscì comunque ad entrare, però devo dire che si entrava all'alba intanto, in piena notte, alle 4:30 del mattino, quindi era tutto buio, in giro non c'era nessuno, e una volta entrate le porte venivano chiuse e non potevi più uscire, ti veniva proprio vietato di uscire perché qualunque contatto con l'esterno poteva inficiare i risultati della ricerca. E vabbè, poi soltanto una volta lì ho capito che cosa dovevano fare, cioè infilarmi un sondino dal naso nello stomaco per controllare lo stato del pH del mio stomaco una volta assunto il farmaco. E tu cosa facevi? Giravi intanto? Io nel frattempo giravo tutto, il problema era avere un'angolazione dalla quale poter riprendere il tutto. Vabbè, è stata un'avventura vera. È stata un'avventura vera. E la conclusione della tua avventura qual è stata? È stata un po' misera dal punto di vista del risultato farmaceutico, perché poi scoprirono che il pH del mio stomaco era troppo acido, quindi dopo poco più di una giornata mi dissero che non potevo andare avanti, mi mandarono via e mi liquidarono, mi avevano promesso 1200 euro. E quanti te l'hanno dato? Me ne dettero 300. 300? Malissimo. In tutto. 300 e gli altri in tutto. Lo sai quanto guadagnavano? Circa 1200 euro per tutta la sperimentazione. Cioè per che quanti non era giorni? Poco. 3 giorni di lavoro. Tre giorni da cavi erano 1200 euro. Però devo dire che ecco, quello fu l'aspetto forse più importante. Le persone che erano lì, perché erano tutti italiani, e c'erano prevalentemente due tipologie di persone. Da un lato anche persone di una certa età, insomma padri di famiglia. Mi colpì in particolare uno che doveva mandare la figlia all'università, ma non aveva i soldi. E quei 1200 euro servivano per pagare le tasse della figlia all'università. C'è e l'aveva portato un suo collega più giovane che invece lo faceva perché doveva pagarsi le vacanze, e io finii in stanza con un ragazzo che era lì insieme alla moglie, lo facevano tutti e due, perché mi diceva chiaramente, lo faceva da anni fra l'altro, era una cosa che facevano da 4-5 anni, perché con quei soldi si levavano gli sfizi, mi raccontarono, certo, però devo dire che poi la gran parte insomma erano soprattutto persone che avevano bisogno. Rossella da Brescia, questo è un tema naturalmente che agita moltissimo gli animi dei nostri ascoltatori, tantissimi messaggi pro e contro. Rossella, come sintesi di queste posizioni? Buongiorno. Buongiorno, sto chiamando dalla Sicilia. Premesso che l'Italia è il paese al mondo che fa più esperimenti sugli animali, perché dietro c'è un business pazzesco. Sì. Intanto un cane non sarà mai uguale a un uomo. Forse è migliore, voglio dire, ma non è questo. Vabbè, questo non è... Sì, dipende dagli uomini che si incontrano. No, che mi creda, su tu da tutti. Vabbè, ok. L'America, che è un paese civile, sì, non fa quasi più esperimenti sugli animali. Obama ha dato una cifra pazzesca per fare gli esperimenti o sugli uomini volontari. Ecco, abbiamo ha sentito la storia del volontario. Sì, sì, sì, ho sentito, ma non mi interessa. Per me un cane sarà sempre meglio di un uomo. In ogni no, caso, no, non no, non ha capito. Abbiamo dato la storia, non l'ha sentita la storia di un uomo. Sì, che... sì, sì, no, l'ho sentita vagamente. In ogni caso, oggi una bistecca si crea anche sinteticamente. Dunque gli esperimenti si possono fare sulle bistecche. In America li fanno così, qui c'è dietro un business orrendo. D'accordo, senta signora, grazie. Naturalmente Andrea da Milano ha un'altra opinione, dice: gli animalisti di oggi mi ricordano quelli che nel 1400 non volevano che si sezionassero i cadaveri per studiare come funzionava il corpo umano. Le posizioni sono le più diverse, le più estreme, però la storia di... abbiamo Pietro, Pietro da Pordenone, buongiorno. Buongiorno Pietro. Pronto? Pronto? Non c'è? Pietro non c'è. Pietro non c'è. Ecco, anche la storia che abbiamo sentito, dicevo, è una storia anche una storia di crisi abbastanza evidente. Andare a cercare i 2000 euro appunto per sbarcare il lunario, insomma, come cosa non succede nei campi profughi, per esempio, cosa non succede nei campi profughi. Ma io non ho capito, la signora diceva prima meglio un cane che un uomo, un cane che un uomo, cioè, poi stremina, preferisce i cani, vabbè, lecito. Le piacciono i cani, ma in che senso? Non c'è Sara, ma se fosse Sara non ho capito Sara. Il senso, no, come persona, voglio cioè dire... nel senso che è meglio fare gli esperimenti sul cane, no. Proprio meglio il cane dell'uomo. Quindi era un po' dell'uomo così, facciamolo, no? Quello che vogliamo, il cane preserviamolo, il cane preserviamolo. Insomma, questo è un po' la posizione che aveva la signora. Telefonava dalla Pietro? Sicilia, sì, posso dispiace, dire sugno sicco ne robe, sugno sicco, poi me la traduci Pietro. Che sono morto dentro i miei stessi vestiti. Pietro da Pordenone, Pietro buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, io no, volevo porre un momento l'attenzione sull'importanza della sperimentazione con gli animali, perché ci sono, noi prendiamo i farmaci. Lei cosa fa? Mi scusi Pietro, lei cosa fa? Informatore medico. Si prende il farmaco per l'aspetto più importante, quello rivolto verso la terapia, ma però per fare questo bisogna sapere anche che è molto pericoloso, ci sono delle dosi letali, ci sono delle interferenze con altri farmaci, ci sono degli aspetti collaterali che possono essere esaltati da altre patologie, e tutta una serie di e quindi lei dice che è pericoloso anche per chi la fa, naturalmente abbiamo visto la storia in Francia. Pronto? Pronto? Sì. Grazie, va bene. E naturalmente i messaggi continuano, sono tantissimi. Ilaria dice: ma dovrebbero farla completamente gratis la sperimentazione, 300 euro per rischiare malattie non mi sembra molto. E insomma è un tema che fa discutere tantissimo, e ritorneremo ancora su questo tema. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangelo, che canzone ci proponi? Arriva c'è il fatto che la simpatia altro non è che la scatola della tristezza, così come ogni tempesta va a nascere dal mare della tranquillità, e tutta la fatica dei passeggeri oggi in metropolitana era nella cerca di un modo ostinato per voltare le spalle. Ha chiamato Raimondo Vianello stamattina, e siccome sono pur sempre innumerevoli i modi per sedersi e calmarsi, ha voluto questo brano e la dedica, questa canzone, a Sandra Mondaini. Grande cosa. coppia di classe, Mondaini Vianello. Messi. Veramente onore alla professionalità, al gusto e al talento. E allora, Mario, tu che bolla ci racconti? Un po' di agenda internazionale. Bella, sì. Bella. Questo è un remix di Sam Alabi e l'ho scelta io. L'ho scelta io oggi, la Guerrera l'ho messa in pace. E facciamo ascoltare un po' il ritmo che si balla adesso in discoteca. Senti. E poi è un remix di un brano di Aretha Franklin, per essere chiari. Allora, la cosa più importante, due cose importanti. Una, non la esaurisco, diciamo, tutta oggi, ce la teniamo un po' per domani, ma insomma c'è il Consiglio europeo molto importante, 18-19. Tra l'altro oggi Renzi ne parlerà alla Camera e al Senato nel pomeriggio del rientro dall'Argentina. Ma lo lasciamo da parte perché quello è il Brexit, di cui abbiamo parlato parecchio. Invece ce n'è un altro, un po' più sotto traccia nell'agenda, diciamo, dei quotidiani, dei notiziari televisivi, ma è importante perché sabato a Tobruk dovrebbe esserci il voto di fiducia al governo di riconciliazione libico. Voi direte, vabbè, che ce frega. Ci importa molto perché tutti gli sforzi diplomatici di Palazzo Chigi e della Farnesina, quindi di Gentiloni, ministro degli esteri, e del premier Matteo Renzi, sono stati focalizzati su questo dopo la conferenza internazionale sulla Libia che si è tenuta, non a caso, a Roma. Quindi noi dobbiamo guardare con attenzione che cosa succede. Ci sono fortissime... si capirà un po' quello che dovrà fare l'Italia dopo. Certo, perché prima i passaggi dell'Italia erano questi: facciamo un governo di riconciliazione e poi aiutiamo i libici a dare stabilità al paese. Se non c'è il governo, ovviamente l'opzione militare ritorna in campo, chiaro, naturalmente. È evidente. Quindi va seguita con molta attenzione, secondo me. È importante un passaggio che questo decisivo governo, insomma, riesca a essere formato. Sì. C'erano un po' di problemi con i rappresentanti parlamentari legati a Haftar, che sappiamo tutti è quello che fa la proxy war, cioè la guerra contro terzi con l'Egitto. Anche lì, vediamo sabato e trarremo poi le conclusioni. Saramino! Chi vince, perde. Sciagura massima è la vittoria, la vera iubris è la sconfitta. Questa è la morale per le prossime amministrative, dove la gara è a perdere e non invece... La furbata, infatti, è tutta nel passo indietro. Vai avanti tu che mi vieni da ridere, sembra dire Berlusconi e Matteo Renzi. Se a Milano, per esempio, invece che un forte candidato politico, candida contro Beppe Sala un certo Stefano Parisi, che sarebbe copia della copia, ovvero se non è zuppa e pan bagnato. Ma se Milano piange per i berlusconiani, Roma non ride col candidato Guido Bertolaso, l'abbiamo ascoltato ieri, che insomma la propria vincente campagna elettorale l'ha fissata già con due punti fermi: primo, mai votato Berlusconi, i berlusconiani sono contentissimi; secondo, i Rom sono soltanto dei penalizzati e i leghisti sono contentissimi; terzo, Salvini odia Roma e così l'alleato è ben organizzato. Poi nel 2008 votai Rutelli e quindi giustamente consolida la sua tradizione nell'area di centrodestra. E ma poi l'ultima bellissima e dice: se non fossi candidato voterei Giachetti. Ecco, diciamo che l'apoteosi si confà a quello che una volta la canzone... È un uomo così libero. Libero, libero e per i liberi cosa ci vogliono? Ci vogliono i... Ecco, per vincere ci vogliono i leoni. Invece che cosa abbiamo bisogno noi? Più che i leoni, i gattini. Più che i leoni, i gattini, perché fa così schifo l'idea di vincere alle elezioni che i 5 Stelle giustamente hanno capito l'antifona. Dice: a Roma c'è un complotto per farci vincere, lo ha detto Paola Taverna, intervistata dai nostri colleghi di Radio Cusano Campus e ragionando su un fatto chiaro, che cioè ci vogliono al Campidoglio per farci sfigurare. Chi va a vincere, insomma, va a perdere. Ma in fondo cosa sono queste stelle? Le stelle sono tante, milioni di milioni. Le stelle, se solo vincesse il 5 Stelle, sono appunto tante, milioni di milioni, e ben 209 sono i curriculum messi in rete. Quello che dovrebbe mettere a posto tutto nella loro logica, altro non potrebbe essere che, per esempio, ne scelgo uno, un candidato, quello che secondo me vincerà, è Pietro Calabrese, pittore, il quale ha l'idea più bella di tutte, Mario, quella di una webcam che possa seguire il sindaco in diretta, una specie di Grande Fratello, ma ancora meglio del Grande Fratello, per sapere con chi parla. Sì. Chi incontra, quando fa e come fa le cose sporche, mamma mia, quando, come fa pipì, ma soprattutto, soprattutto la trasparenza con le domande fondamentali. Chi ha rubato la marmellata? Chi sa? Ed un uovo di cioccolata? Chi sa? E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il pom? Io non c'ero su stato, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì. Ma il bassotto porta. Vabbè, è questa tu webcam. Sai che io la sua memoria. Questa, sì? Sì. Questa dai, webcam. La canti? Non ci penso nemmeno. Dai, ma dai, vai, dai, dai. Dai. No. Johnny Bassotto, basta. Dai, ancora. Dai. Comunque me la ricordo tutta, grazie. Dai, scusa, bambini, ragazzini, dai, lasciate andare. Altro, si liberatevi, libera, voi. Si bella. Liberatevi voi. Comunque. Liberati, su, Mario, invece parla sempre di queste cose. E lo so, siamo diventati grandi, era bello quando eravamo bambini. Vabbè, avevamo allora tanti sogni mai realizzati. Mai? Sì, dai. Mamma mia. Can catch me in them streets with my blue khakis on, in my tuxedo, smoking blunts with my crew. Hey, all my niggas do the gangsta walk. All my niggas do the gangsta walk. Secondo me si vede che l'ho scelta io la musica. Comunque, sì, senti, sì, qua, sì, vede, senti. Oh, Gangsta Walk sono. Franco, anche l'accendino c'è acceso in regia, segnalo. Vedi? Franco gli piace. Vabbè, insomma, comunque siamo in America. Questo è il punto fondamentale. E perché? Perché bisogna fare stecchito il biglietto da $100 e con lui anche il biglietto da 500 euro. C'è un pezzo molto interessante stamattina, ho letto, di Lawrence Summers, che è stato ministro del tesoro degli Stati Uniti nonché il capo dei consiglieri economici della Casa Bianca. È un pezzo da leggere perché spiega le ragioni per cui sia il biglietto da $100 che la banconota da 500 euro vanno eliminati dal mercato, perché sostanzialmente sono il denaro della criminalità, currency. La cosa inquietante è che Summers cita uno studio della Harvard Kennedy School sulle monete, su questo tipo di taglio, e sai come viene chiamato nel mondo della criminalità il biglietto da 500 euro? Come? Bin Laden. Bin Laden, sì, Bin Laden. I soldi non del riciclaggio, non di quattro. È molto interessante. Sapete che c'è un dibattito a livello europeo su questo. Lo stesso Draghi ne ha parlato. Secondo me è una di quelle cose che sembrano marginali, in realtà poi sono miliardi di euro che si muovono liberamente nel mondo del crimine. Canzoniere. Basta con la pazzia, sventurato, e ciò che vedi morto impara che è perduto. Ci sono stati giorni splendidi nel sole e andavi dove lei ti conduceva, l'amata come non sarà nessuna, e avvenivano cose deliziose che tu non volevi e lei non disvoleva. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Mix 24. Lo stimo uno degli uomini più grandi fra quelli vissuti nel nostro tempo. Non vedremo mai più nessuno come lui. Il suo nome rivivrà nella storia, rivivrà negli annali della guerra, rivivrà nelle leggende dell'Arabia. Lawrence d'Arabia, l'uomo combattuto fra due civiltà. L'uomo combattuto tra due civiltà, così Winston Churchill nell'epico film di David Lean. Dalla fiction alla storia. Il colonnello Lawrence vive tra due mondi, brillante ufficiale dell'esercito inglese e appassionato paladino del nazionalismo arabo. E oggi, di fronte alla sconvolgente realtà del Medio Oriente, un sogno di un secolo fa, il sogno di Lawrence d'Arabia, la creazione di un regno arabo indipendente, colpisce e fa pensare. Lawrence d'Arabia, militare visionario, romantico eroe, spia ribelle, leggenda e mistero, diplomazia e tradimenti, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Roberto, Roberto da Pistoia Mario ti scrive, dice: sai che bisogna mettere mano alle scalette musicali, stai peggiorando, confidavo in te. Noi siamo aperti ai consigli. Io invece ringrazio un altro ascoltatore, che è Vincenzo Pugliese, che ci ha scritto che gli piacciono le scelte. Ecco, posso provare a contentare tutti con un pezzo? Dai. Lo facciamo partire, così do anche un aggiornamento, vai. E ora voglio vedere di che non vi piace. Average White Band. Qual è l'aggiornamento? Allora, l'aggiornamento è molto interessante. Lasciamo la musica sotto. Sì. Perché in aula al Senato Luigi Zanda, ha chiesto il rinvio dell'esame del disegno di legge sulle unioni civili. Il che significa che il Presidente del Senato, ci sono grandi difficoltà da parte del Partito Democratico a gestire l'aula, vuol dire, e il voto in aula. Questo significa che si riunirà una conferenza dei capigruppo, molto probabilmente il Presidente del Senato deve decidere ovviamente cosa fare, è una richiesta, però significa anche che Renzi ha confidato troppo sui numeri dell'aula e sul fatto che aveva l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Quindi, applicando la vecchia teoria dei due forni, prendo voti da uno, prendo voti dall'altro, alla fine e è rimasto... gli basta Verdini o no? No, è rimasto con i suoi e con quelli di qualche altro e non gli bastano. Quindi, vedendo il rischio, adesso provano a riannodare i fili, come è stato detto. Bene. Molto interessante, perché prima volta che c'è una difficoltà in aula. Sì, che Renzi ha una difficoltà in aula. Ecco, adesso con il professor Bernabei non abbiamo il canzoniere, nessuno l'ha indovinato, tornerà domani con il professor Bernabei. Dicevo, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery, febbraio 2015. La stimolazione magnetica transcranica per il tinnito cronico. Riporto questo lavoro perché è la prima soluzione a un problema che molti hanno. Io, per esempio, avete presente un rumore di fondo dentro un orecchio, che una specie di scroscio continuo? Questo è il tinnito. E il tinnito è una cosa che con l'età affligge un mucchio di persone, ma ad oggi non abbiamo sostanzialmente terapie. Allora questo gruppo di ricercatori è andato a vedere se la stimolazione magnetica transcranica, diciamo un mini elettroshock, lo dico per, non è esattamente questo, ma lo dico per capirci, insomma, sono onde magnetiche applicate sopra il cranio, ma che non hanno nessun né dolore né invasività, se questo trattamento per 10 giorni consecutivi avesse un effetto su questo scroscio all'orecchio. Bene, il 56% contro il 22% che avevano una stimolazione finta, quindi il placebo, rispondeva positivamente. E questa è la prima volta per questa patologia dove si ha una soluzione vera, reale, dove c'è una diminuzione del fenomeno. Per questo lo riporto, perché vuol dire che si apre qualche strada per tutti quelli poveracci come me che hanno questo problema. E per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto? Ho scelto una canzone per lei. Per lei sarò l'uva se le piace il vino. Dente. A me piace lei. Mi piacciono le risate, le stelle filanti, e i piedi nudi in mezzo ai campi. Ma su tutto e su tutti. Su tutto e su tutti. Piace lei, e lei piace a me, e vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. Se le piace cucinare, mi farò cucina, sarò il sole se le piace la mattina. Se le piace il suo palazzo, le starò vicino, sarò l'uva se le piace il vino.